Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 12 vignette, ritenute blasfeme e offensive da gran parte del mondo islamico. 12 disegni satirici pubblicati nel 2005 dal giornale danese Jylland Posten e riprodotti pochi mesi più tardi da Charlie Hebdo. Caricature che avevano acceso la rabbia contro l'Occidente e contro la stampa, colpevoli, secondo l'accusa delle comunità islamiche, di aver raffigurato Maometto, atto proibito dalla religione. L'onda delle proteste e delle violenze attraversa l'Europa e l'Oriente. Centinaia le manifestazioni anti-occidentali, dal Libano alla Turchia, dal Pakistan alla Nigeria. Cosa significa essere civilizzati? Cosa significa respirare l'aria del proprio tempo? Significa, secondo me, essere capaci di leggerezza. Questa mattina voglio tornare su quello che è l'evento più importante della giornata, la strage Charlie Hebdo a Parigi, e non voglio entrare nei particolari di cronaca legati al perché, il per come, il per quando, la contrapposizione fra Islam e Occidente. Voglio farvi delle domande molto precise. Quali sono, secondo voi, gli argomenti, i temi, le situazioni, le persone, le istituzioni per le quali non ammettete il diritto che qualcuno possa scherzarci sopra? Esiste qualcosa di intoccabile, di profondamente intoccabile, che non tollerate che qualcuno ci scherzi? Ve lo chiedo perché naturalmente il punto è proprio questo. Non entro sinceramente nel capire il perché e il per quando. La suggestione iconografica oggi ci impedisce di dare giudizi sereni su qualsiasi cosa che noi ci circondi. Ci sembra terribile, terrificante, impossibile più che ogni altro precedente vedere un signore che spara addosso a un poliziotto morente per terra, ma la stessa cosa accade tutti i giorni comunque nelle nostre strade. Personaggi come noi uccidono, sgozzano donne, ammazzano bambini, sono persone normalissime. Non abbiamo il supporto iconografico emotivo che ce li faccia vedere nel momento in cui compiono quel ferato delitto, e quindi quando poi li vediamo dissezionati, raccontati nei bianchi salottini della televisione, non ci facciamo più caso, non perdiamo di vista il fatto che perdiamo di vista il fatto che appartengano alla nostra generazione, alle persone che vivono come noi. Non sono rappresentativi dell'Occidente le mamme assassine e gli uomini assassini, le donne assassine, gli uomini che ammazzano donne, le bocconiane che buttano l'acido in faccia ad altre persone. Non sono rappresentativi del punto di leggerezza dell'Occidente, che equivale a civiltà, a civilizzazione. Però accadono queste cose. Li vedessimo nel momento in cui compiono il delitto efferato, terribile, probabilmente qualcuno potrebbe dire: ecco, guardate, questo è l'Occidente. Questo come premessa. Ma tornando al punto, cosa voi considerate assolutamente intoccabile dalla satira? Per proprio questo voglio capire. La bellezza e la leggerezza di sentirsi civilizzati è proprio dire: ma voglio permettere a una persona di ridere anche su cose che per me sono importanti, per me sono sacre, per me rappresentano dei punti importanti della mia vita, del mio punto di vista. Ci rida sopra, perfetto. Sono talmente sicuro e talmente radicato nella certezza in quello di cui credo che non posso pensare che semplicemente il fatto che uno mi disegni i baffi sopra l'immagine per me intoccabile di un dio, di un profeta, di un rappresentante della mia religione, o lo mostri in atteggiamenti salaci e sconci, questo faccia sì che mi faccia inorridire, ribellare fino al punto che trovi quasi giustificabile, come in fondo fra le righe, senza ipocrisie false, hanno detto importanti organi di stampa, primo di tutti il New York Times, ma anche altri giornali, che dicono: beh, in fondo hanno esagerato, sapevano che in realtà c'era una particolare. Il Financial Times ha detto che sì, in effetti, però far vedere, capito, atti sessuali promiscui, ridicoli e scurrili da parte dei simboli più importanti di una religione, beh, in fondo se la sono andata a cercare. Non lo dicono esattamente così, non era meglio non vederlo. Beh, noi invece probabilmente ci sentiamo più civilizzati, noi possiamo tollerarlo questo, possiamo dire: ma sì, facciano quello che vogliono, scrivono quello che vogliono, dissacrino quanto vogliono. Può pensare, ammesso che possa essere un principio condivisibile, universale, la visione metafisica e religiosa. Può essere concepibile uno che pensa che un Dio si arrabbia se uno fa una vignetta, che un Dio è così poco Dio, così poco divino, così poco immenso, così poco onnicomprensivo, che se la può prendere fino a chiedere un tributo di sangue se qualcuno ti disegna i baffi sulla tua immagine, o qualcuno ti fa vedere in un atteggiamento non certo proprio consono alla maestà della divinità. Beh, vi faccio sentire adesso, mentre voi riflettete, chiamate all'800240024, qualcosa che abbiamo casualmente preso su YouTube, che naturalmente non ha nulla a che fare con prese di posizioni universali, che però in fondo dissacra, tocca dei punti molto nevralgici della nostra, diciamo, ufficiale visione di una possibile vita religiosa. È preso da una serie che si chiama Preti di Astutillo Smeriglia, che è probabilmente un vignettista, non so bene cosa sia, che comunque non ha la dignità di essere conosciuto come ha conosciuto Charlie Hebdo a livello internazionale, che però a modo suo tocca dei punti molto fastidiosi anche per chi ha una visione religiosa. Chi è? Buongiorno, sono stato assegnato alla sua parrocchia. Sul serio? Sì, per lo stage. Ci siamo sentiti per telefono venerdì. E dica, quanti sono gli apostoli? Gli apostoli? Sì. 12. Chi ha scritto il Vangelo secondo Matteo? Matteo. Il Vangelo secondo Sandro? Il Vangelo secondo Sandro non esiste. Lei è molto preparato. Grazie. Pene in vagina? Solo a scopo riproduttivo. Pene in bocca? No. Dito in bocca? Sì. Pene in ano? No. Dito in ano? Solo a scopo medico. Pene in vagina con preservativo? No. Pene in ano con preservativo? Solo a scopo medico? No. Questa parte non l'ho ancora fatta. Entri. È forte, sì, mi rendo conto, è forte. È un giovane pretino che va in una parrocchia per fare uno stage, passa questa sorta di esame di ammissione e naturalmente nell'esame di ammissione viene trovato come un punto a favore il fatto che ancora non abbia esperienza in rapporti promiscui con altri suoi confratelli, con religiosi. E tocca un punto sgradevole, fastidiosissimo da elaborare, che è quello, diciamo, della doppia lettura rispetto alla promiscuità sessuale che molti rappresentanti della Chiesa, del clero ufficialmente hanno. Qualcosa di puriginoso, qualcosa che ha una visione religiosa concreta, vissuta, intensa, gli dà fastidio, ma l'essere civilizzati significa dire che ho compassione per chi scherza su queste cose, non capisce la maestà, l'importanza, la missione comunque, quindi benissimo, mai verrebbe in mente di sparargli in bocca. Posso controbattere con strumenti forti, posso cercare di fargli capire che è sbagliato fermarsi su questi aspetti marginali, umani, amplificati da una propaganda antireligiosa, mettetela come volete, ma esistono mille maniere per contrapporsi comunque a chi fa come... Questo è un fumetto, disegnato, è un cartone animato, molto divertente tra l'altro. Ecco, questo significa secondo me essere civilizzati. Far passare il principio che comunque esistano cose sulle quali non si possa scherzare non fa parte della modernità. Fernando, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei trova fuori luogo il mio preambolo, quindi le do modo di spiegarmi in che maniera. Certo, perché se è vero che la cronaca... Poi, grazie al cielo, non è che ogni giorno si spara alla moglie o si uccide no, il bambino. No, ogni giorno si spara alla moglie e ogni giorno succede al bambino. Nel mondo succede questo. Beh, se lo vogliamo mettere in questo caso, va bene. Tuttavia, il preambolo che ha fatto, dicevo, no? Mi sembrava logico, però poi mi è sembrato che lei fosse andato fuori strada, perché... Vede, uccidere per motivi religiosi, no? È sempre una follia, ma certamente io non la paragonerei alla follia di chi per gelosia... Chi giustifica, giustifica il delitto d'onore rispetto all'atto folle di sparare a un vignettista? Certamente sono due cose differenti, me ne darà atto, no? Entrambi affondano in una profonda incultura, una profonda incapacità di gestire la contemporaneità, la modernità. Chi uccide la moglie perché è geloso è un uomo arcaico. Chi uccide un vignettista perché pensa che il suo Dio rimanga offeso è un uomo arcaico, appartiene a un altro mondo, a un'altra civiltà. Mi permetta, io da cristiano... mi dà fastidio enorme quando viene offesa o che poi se ci fa caso, no? È più facile essere spiritosi, a parte quelli, è più facile essere spiritosi con il Dio cristiano che non con Allah. Certo, perché nessuno ti ammazza, no. ma perché siamo ecco. più civilizzati. Ma non lo so, forse un po' più timorosi. Comunque, perché lei troverebbe giusto sparare addosso a quello che ha fatto quel cartone animato col prete che dice entra caro, ti insegno io, qualcosa del genere? No. Lo punirebbe in qualche maniera per quello che no, ha fatto? Le do subito la risposta. A me francamente dà fastidio, però siccome apparteniamo per nostra fortuna a una società che ha raggiunto determinati valori, no? Mi rivolgo a un buon avvocato e querelo, denuncio chi fa una cosa del genere. Ma qual è il reato? Vilipendio alla religione? Io trovo che anche certo. Il vilipendio alla religione sia abbastanza ridicolo, onestamente. Questo è soggettivo, a me oggettivamente non mi pare. Ma scusi, la religione, adesso solo per capire, guardi, mi creda, parla con una persona battezzata, sposato in chiesa, sacramentato, però molto, molto impegnato nel difendere la libertà di pensiero di chiunque. Le dico, se la religione, alla base della religione c'è un Dio, e un Dio comunque è qualcosa di metafisico, ma perché dobbiamo prenderci noi la briga di difendere l'onorabilità del Dio? Ma il Dio è la nostra visione personale. Possiamo sorridere, possiamo dire ci dispiace per la persona che sbaglia, ci dispiace per la pochezza di visione generale di chi prende in giro, ma ci facciamo una risata sopra e andiamo avanti. Il nostro Dio non sarà nemmeno toccato lontanamente, almeno così la vedo, dalla vignetta di un poveretto che prende in giro il prete desideroso. Infatti io, guardi, ho salvaguardato la libertà, perché non vorrei essere frainteso, no? Il concetto di rispettare il pensiero degli altri è sacrosanto, oramai è acquisito da qualche secolo, spero. Tuttavia il fatto di offendere una persona, la sensibilità religiosa di una persona, va a un certo momento guardata con più attenzione. Sì, però, mi scusi, poi dopo. Se no parliamo soltanto con lei, la trasmissione dura già poco. Dico, quali sono le cose cui può lavorare la satira? Perché se non tocca il potere, non tocca l'intangibile e ciò che è sacro, non si dissacra laddove non c'è sacro. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io in realtà non mi discosto molto da quello che ha detto l'ascoltatore precedente, perché appunto ritengo che la libertà di parola, della satira sia sacra sicuramente, facendo diciamo così. Però che bisogno c'è a tutti i costi di sacrare, di essere anche forse eccessivi, cioè perché fa ridere, scusi, vedo... il pretino che bussa gli dice gli fa quella domanda, dice entra pure fratello, fa sorridere, mette a luce un aspetto di cui non si parla mai con serenità, me ne rendo conto. Poi se questo sia giusto o non giusto non sono io a giudicare la giustezza, ma se non si dissacra le cose che sembrano sacre, cosa si dissacra? Dissacrare Pippo Baudo fa morire da ridere, ma non dissacri nulla, prendi già in giro qualcosa che fa parte del mondo di rappresentazione. È un po' come il limite, secondo me, di chi dice io dico sempre quello che penso e quindi per questo. Ma non rafforza l'idea. Ho ragione. Scusi, cioè... parlo con lei, Alberto, che mi sembra una persona di principi. Non rafforza l'idea di muoversi nella giustezza, nella correttezza per chi diciamo segue i precetti di una fede, il fatto che qualcuno la dissacri? I martiri erano la base fondamentale poi del diffondersi di una religione, il fatto che qualcuno la dissacri dice benissimo, siamo talmente sicuri e convinti che il nostro sia il modo giusto di vivere e pensare che possiamo anche sorridere su chi ci dissacra. Questo secondo me è una maniera forte, moderna, di vivere anche il senso religioso. Devo dire, uccido tutti e impedisco, anche impugnando il diritto a qualcuno di prenderci in giro. Prendetemi in giro, io sono talmente sicuro e radicato nella mia visione della vita che se anche mi prende in giro non mi cambia nulla. Io la vedo così. Melog. Cronache meridiane. Uno dei focolai più gravi e sanguinosi è quello acceso a Bengasi, in Libia, provocato da un ministro della Repubblica Italiana, Roberto Calderoli, leghista, che durante un'intervista TV nel febbraio 2006 mostra alle telecamere la maglietta con la riproduzione di una delle vignette di Charlie Hebdo. Le manifestazioni di protesta divampano in poche ore, il consolato italiano a Bengasi viene preso d'assalto da una folla infuriata, le vittime saranno decine. Nel 2004 era stato un film a provocare l'indignazione del mondo musulmano, Submission, dell'olandese Theo van Gogh. Vogue. Il regista viene assassinato in una strada di Amsterdam dall'estremista islamico Mohammed Bouyeri come ritorsione contro alcune immagini della pellicola considerate provocatorie contro l'Islam. Evidentemente non sono riuscito a spiegarmi, cerco di farlo meglio perché continuo a vedere messaggi. Un prete non è Dio fesso, come per dire, non capisce la differenza tra chi insulta Dio e insulta un suo ministro, la vignetta sul prete. Ma guardate che le vignette di Hebdo, se le guardate bene, sono un insulto costante, continuo, radicale e a volte anche assolutamente ottuso nei confronti anche della cristianità, la natività, Gesù, Padre, Figlio e Spirito Santo che fanno il trenino. Ce ne sono di tutti i tipi, ce ne sono, ma non mi sembra che nessun cristiano sia mai venuto in mente di andare a sparare addosso a questi. Quello che voglio dimostrarvi, cercare di far capire, che tutto sommato, con tutti i suoi limiti, con tutti i distinguo si possono fare ancora, chi in Occidente professa, poi non so fino a che punto radicalmente viva, un precetto religioso, ha una visione comunque più leggera della religione, come giusto che debba essere, come giusto che sia. È un fatto personale, privato, anche sociale, è un rapporto individuale con la propria coscienza, con la propria vita quotidiana, ma non è che sparando, uccidendo e annientando ogni forma, seppur diabolica, chiamatela come volete, di dissacrazione, si rafforza l'identità del proprio Dio. Dio non ha un'identità da difendere, ma ha una condivisione di vita terrena in vista di una vita extraterrena. Così la vedo io, così mi hanno insegnato ai tempi che andavo al catechismo. Corrado, buongiorno. Corrado attaccato, vediamo se lo riprendiamo. Marco, buongiorno. Buongiorno, io sono Marco. Buongiorno a tutti. Facevo una piccola considerazione, cerco di essere anche sintetico e breve. Il problema è che noi abbiamo a che fare con il popolo islamico che non riesce a fare nulla senza il consenso di Dio. Cioè, per loro Allah viene prima di qualsiasi cosa, ma è possibile... Vabbè, però la visione radicale della religione è questo, è quello che si auspicherebbe anche un cristiano. Se lei vedesse qual è la cosa migliore per il cristiano, che si viva conforme al messaggio evangelico, quindi dovrebbe ogni giorno vivere porgendo l'altra guancia, pensando ai poveri, pensando alla vita. Così bisognerebbe vivere, un cristiano così dovrebbe vivere. Sì, però il discorso è un po' più complesso, nel senso che questa gente è totalmente priva di libertà di coscienza, non fa niente senza il consenso di Dio. In una civiltà laica questo, secondo me, è veramente un atteggiamento. Ma la religione è questo, gli ebrei si circoncidono perché Dio chiede che bisogna circoncidere, tagliano un pezzetto di pisello al figlio perché per loro è una cosa che giusta, è un patto inalienabile con Dio, vista da fuori, da chi non ha concezione religiosa, dice ma siamo pazzi, tagliano un pezzetto di pisello al figlio, quale Dio può avere a cuore il fatto che gli accorci un pezzetto di prepuzio? Eppure invece no, è un precetto religioso intoccabile. I cristiani alla stessa maniera perlomeno professano l'unione matrimoniale finalizzata ai figli, ma chi è che si sposa soltanto per fare i figli? Come vede, in realtà il punto d'arrivo nella religione sarebbe vivere integralmente, profondamente il senso religioso. Quando questo accade ci sembra una cosa arcaica e lontana, quindi esiste una mediazione nella religione, ma io voglio tornare al punto, perché sennò facciamo disquisizioni di altro tipo. La satira può essere tollerata anche da chi ha una visione profonda e metafisica dell'esistenza. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non chiama nessuna donna oggi, 800 24 00 24. Non sentitevi tagliate fuori da un discorso sulla religione, come è ormai credenza internazionalmente accettata il fatto che le donne siano fuori. No, le donne sono dentro anche a questo. Prego, scusi. Ah, niente, si figuri. Beh, niente, io volevo, visto che mi avete dato questo spazio, vi ringrazio, volevo dire la mia. Allora, secondo me, quando non viene accettata la satira, e oltretutto non viene accettata nel modo usato ieri, e parliamo di una civiltà grandissima, ma non c'è la parola per definirlo, no? Però molte volte, guardi, allora, questo va detto per... Molte volte va anche oltre, molte volte erano vignette di pura offesa, non facciamo nemmeno ridere, però ci sta anche quello, fatti loro. Ascolti, se io offendo lei in modo grave, no? Lei ha tutti gli strumenti per denunciarmi, per portarmi in un tribunale. Sì, se lei mi diffama, se lei diciamo intacca la mia onorabilità, ecco, mi difendo, è chiaro. Ecco, e lei ha questo strumento, usi questo, non mi spari. Ma se lei mi dice brutto, schifoso, quattr'occhi, fai ridere, ecco, vabbè, ti farò ridere a te, pazienza. Qualcun altro piangerà. Semmai se lei ritiene di essere leso nella sua onorabilità, eccetera, mi denuncia, usa gli strumenti che certo, questo mondo in civile comunque le dà. Allora, io dico questo, agire in questo modo è chiaramente un segno di grande debolezza. Le persone forti non reagiscono così, reagiscono in un altro modo. La mistificazione della religione porta a questo. Come lei diceva, secondo me, giustamente prima, quando dice i cristiani dovrebbero vivere secondo quello che dice il Vangelo. Assolutamente, se no è una presa in giro, scusi. Ecco, sono d'accordissimo con lei. Il problema nasce quando noi abbiamo a che fare con dei ministri o dei capi di Stato profondamente cristiani che fanno esattamente l'opposto. Però questi sono un singolo e gridano a alta voce che lo fanno in nome del loro essere cristiani. Capisce? Ma questo è sempre esistito. In passato ci sono stati gli scismi, c'è stato un cambio profondo, proprio perché di questo è sempre accusato, che poi i ministri non rappresentano in realtà quello che dicono. Ma io vado ancora oltre, non sono io a far la morale o a giudicare chi si dice essere religioso. Dico, ma si può scherzare senza che nessuno consideri questo un atto degno di violenta repressione? Gaetano, abbiamo preso. Sì, sì, buongiorno. Sì. Volevo solo proporre una questione. Cioè, io penso che noi forse non dovremmo aver voglia a tutti i costi che il nostro modo di vivere debba essere accettato da tutti. Perciò la satira per noi è nata insieme ai greci, ai romani e compagnia bella. Ma non possiamo pensare sempre ed esclusivamente che noi siamo dalla parte del giusto e se gli altri reagiscono, in questo caso esageratamente, tutto quello che volete. Oddio, ammazzare però colpi di Kalashnikov delle persone che facevano disegni, non mi sembra che ci siano margini di giustificazione di nessun tipo, onestamente. No. Non credo che con le crociate noi abbiamo fatto qualcosa di diverso. Sì, vabbè, adesso stiamo sempre a fare il prima e il dopo. Io parlo adesso, oggi, nel 2015 accade qualcosa del genere. La trovo un po' strano, sinceramente, che ci sia ancora qualcuno che dice ma sì, però, che ponga i distinguo. Sì, però avevano esagerato facendo disegni. Fare disegni può essere passibile di essere uccisi. Può essere una persona civilizzata che ancora pensi sì, sì, però hanno esagerato. Qual è l'esagerazione di fare disegni che merita comunque la fucilazione? Luciana. Buongiorno. Io francamente non sono assolutamente d'accordo con i miei colleghi maschi, anzi, cioè trovo quasi paradossale che si cerchi di difendere una cosa che è indifendibile. Cioè, voglio dire, ma non si, appunto, come diceva lei, non si può rispondere con questa violenza a un qualcosa che appartiene alla nostra cultura nel nostro territorio, non nel loro, oltretutto. Che facciano loro, cioè del loro territorio possono mettere, visto che sono padroni a casa loro, delle leggi che chiunque disegni, anche perché esiste l'iconoclastia, è vietatissimo dalla religione islamica rappresentare comunque i personaggi sacri, quindi ci danno e non si può fare, fine, ma io posso fare, fra l'altro una vignetta, è uno scherzo, un gioco, è una facezia, non è nulla che fa niente, è una facezia, è l'ambito del gioco, del divertimento. Sulla volgarità, sul fatto che magari può anche non essere divertente, perché in taluni casi, certo. In taluni no, però arrivare a fare quello che è stato fatto è ingiustificabile, è anche incomprensibile se noi ci basiamo sulla nostra cultura. Vede, lei Luciana ha colto quello che cercavo di dire dall'inizio, che lo facciano loro è qualcosa su cui parla e si discute, approfondisce gli esperti, gli analisti dei terroristi, se siano zombie, se siano lupi solitari, quale sia la forma del terrorismo, ma che ancora in Occidente c'è qualcuno che fa e distingue, pone il fatto, dice ma sì, avevano esagerato, quindi in fondo se lo sono chiamati, è una maniera per giustificare che questo accada. Elisabetta. Sì, buongiorno. Io volevo riallacciarmi al discorso della precedente ascoltatrice, dicendo che la libertà di espressione, pronto? La difesa 360 gradi, non si può assolutamente dare nessuna forma di giustificazione a chi in nome di una religione o di un Dio uccide chi manifesta un'espressione o una dichiarazione, una volontà diversa dalla propria. È qualcosa di inaccettabile. Io vado oltre, le dico, anche nel caso in cui queste vignette non fossero facezze, non fossero satiriche, ma fossero state realmente offensive, allora mi denunci per diffamazione, ma non mi uccidi, mai. Certo, cioè, un Dio che si senta diffamato e sieda nel banco, diciamo, dell'accusa lo vedo un po' difficile. Dio dovrebbe essere l'assoluto, intangibile, esatto, da ogni diffamazione. Dovrebbe ridersene del fatto se qualcuno non crede in lui o lo insulta e dire: ce la vedremo in un'altra vita, perché in questa vita sei tu l'artefice delle tue azioni. Chiara, buongiorno. No, mi fa piacere che... Chiara ha parlato, allora Elisabetta. Chi è che deve parlare? Chiara, ecco, Chiara, buongiorno. Sì, no, mi fa piacere che le ascoltatrici che sono intente nel soffritto, se chiamate a raccolta, rispondono immediatamente. Eccomi qua, Chiara. Allora, guardi, mi sente, faccio prestissimo. Io sono d'accordo con l'intervento precedente, sono d'accordo con lei, sono a favore del diritto di satira, ricordando che su argomenti come la religione, l'aborto, Dio, i rappresentanti di Stato, sono argomenti molto delicati perché vanno a toccare l'identità. Però sono gli unici su cui fare satira ha senso. Per fare satira con un povero clochard che non può difendersi non ha senso. Fare satira col Padre Eterno ha senso, mi prendo il rischio anche di dire che ho esagerato, ma non per questo devo essere fucilato. Però volevo dire una cosa. Sì. Sì. Ma io sono d'accordo, infatti. Però voglio dire che secondo me noi ci dobbiamo ricordare che siamo in una società globalizzata, con globalizzazione delle culture. Per cui se nel Medioevo noi avessimo fatto una satira sul Papa, ci sarebbe stata l'Inquisizione e qualcuno sarebbe morto. Ora, se noi facciamo satira su Allah, là c'è una civiltà medievale che non ha avuto l'illuminismo, non ha conquistato, ecco, noi ci siamo affrancati. Effetto, noi ci siamo affrancati comunque con tutti i nostri limiti, ci siamo affrancati ad una visione così oltranzista, così oscurantista della realtà. Quindi noi siamo un pochino più leggeri e di questo dobbiamo essere fieri. Grazie all'ascoltatrice. A domani.